Canto ventiquattresimo della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto ventiquattresimo. Nel dirlandar, nell'andar lui più lento facea, ma ragionando andavan forte. Sì come nave pinta da buon vento. E l'ombre, che parean cose rimorte per le fosse degli occhi, ammirazione traean di me, di mio vivere accorte. Ed io, continuando il mio sermone, dissi: ella sen va su forse più tarda che non farebbe per l'altrui cagione. Ma dimmi, se tu sai, dov'è Piccarda? Dimmi, se io veggio da notar persona tra questa gente che sì mi riguarda. La mia sorella, che tra bella e buona non so qual fosse più, trionfa lieta nell'alto Olimpo già di sua corona. Sì, disse prima, e poi, qui non si vieta di nominar ciascun, da che si munta nostra sembianza via per la dieta. Questi, e mostrò col dito, è buona giunta da Lucca, e quella faccia, di là da lui, più che l'altra trapunta, ebbe la santa chiesa in le sue braccia. Dal torso fu, e purga per digiuno, l'anguilla di Bolsena in la vernaccia. Molti altri mi nomò ad uno, e del nomar parean tutti contenti, sicch'io però non vidi un atto bruno. Vidi per fame a voto usar li denti Ubaldin dalla pila e Bonifazio, che pasturò col rocco molte genti. Vidi messer Marchese, che ebbe spazio già di bere a Forlì con men secchezza, e sì fu tal che non si sentì sazio. Ma come fa chi guarda e poi fa prezza più d'un che d'altro, se io a quel da Lucca, che più parea di me aver contezza? El mormorava, e non so che gentucca sentiva io là, vel sentia la piaga della giustizia che sì li pilucca. O anima, diss'io, che parsi vaga di parlar meco, fa sì ch'io t'intenda, e te e me col tuo parlare appaga. Femmine nata e non porta ancor benda, cominciò ei, che ti farà piacere la mia città come quon la riprenda. Tu te n'andrai con questo antivedere. Se nel mio mormorar prendesti errore, dichiaranti ancor le cose vere. Ma di, s'io veggio qui colui che fuore trasse le nuove rime, cominciando, donne c'avete intelletto d'amore, ed io a lui, io mi son un che quando amor mi ispira, noto, e a quel modo che è detta dentro, vo significando. O frate, issa veggio, diss'egli, il nodo che il notaio e guittone me ritenne di qua dal dolce stil nuovo ch'io odo. Io veggio ben come le vostre penne di retro al dittator sen vanno strette, che delle nostre certo non avvenne. E qual più a gradire oltre si mette, non vede più dall'uno all'altro stilo, e quasi contentato si tacette. Come gli augei che vernan verso il Nilo, alcuna volta di lor fanno schiera, poi volan più in fretta e vanno in filo, così tutta la gente che lì era, volgendo il viso, raffrettò suo passo, e per magrezza e per voler leggera. E come l'uom che di trottare è lasso, lascia andar li compagni e si passeggia, finché si sfoghi la follar del casso, si lasciò trapassar la santa greggia forese, e dietro meco sen veniva dicendo: «Quando fia, chi ti riveggia?» «Non so», rispose lui, «quant'io mi viva, ma già non fia il tornar mio tanto tosto ch'io non sia col voler prima alla riva. Però che luogo non fui a viver posto, di giorno in giorno più di ben si spolpa e a trista ruina par disposto. Or va», dissei, «che quei che più una colpa veggio a coda d'una bestia tratto verso la valle ove mai non si scolpa. La bestia ad ogni passo va più ratto, crescendo sempre, infin ch'ella al percuote e lascia il corpo vilmente disfatto. Non hanno molto a volger quelle ruote», e drizzò gli occhi al ciel, «ca te fia chiaro ciò che il mio dir più dichiarar non puote. Tu ti rimani omai, che il tempo è caro in questo regno, sì ch'io perdo troppo vedendo te così a paro. Qual esce alcuna volta di galoppo lo cavalier di schiera che cavalchi e va per farsi onor del primo intoppo? Tal si partì da noi con maggior valchi, ed io rimasi in via con essi due che fur del mondo si in gran maliscalchi. E quando innanzi a noi si entrato fue, che gli occhi miei si fero a lui seguaci, come la mente alle parole sue, parvemi rami gravi di vivaci d'un altro pomo, e non molto lontani, per esser pure allora volto in laci. Vidi gente sott'esso alzar le mani e gridar non so che verso le fronde, quasi bramosi fantolini e vani che pregano, e il pregato non risponde. Ma per far esser ben lor voglia acuta, tien alto lor disio e non nasconde. Poi si partì sì come ricreduta. E noi venimmo al grande arbore adesso, che tanti prieghi e lagrime rifiuta. Trapassate oltre senza farvi presso, legno è più su che fu morso da Eva, e questa pianta si levò da esso. Sì, tra le frasche non so chi diceva, perché Virgilio e Stazio ed io ristretti oltre andavam dal lato che si leva. Ricordivi, dicea, de maladetti, ne nuvoli formati, che s'attolli Teseo combatter coi doppi petti, e degli ebrei, calbersi mostrar molli, perché noi volle Gedeon compagni, quando in ver Madian discese i colli. Sì, accostati all'un de due vivagni, passammo, udendo colpe della gola, seguite già da miseri guadagni. Poi, rallargati, per la strada sola, ben mille passi e più ci portammo oltre, contemplando ciascun senza parola. «Che andate pensandosi voi sol tre?» subita voce disse. «Ond'io mi scossi, come fan bestie spaventate poltre. Drizzai la testa per veder chi fossi, e giammai non si videro in fornace vetri o metalli si lucenti e rossi, com'io vidi un che dicea: «S'a voi piace montare in su, qui si convien dar volta, quinci si va chi vuole andar per pace». L'aspetto suo m'avea la vista tolta, perché io mi volsi retro a miei dottori, comun che va secondo che gli ascolta. E quale annunziatrice degli albori, l'aura di maggio muovesi a dolezza, tutta impregnata dall'erbe e da fiori, tal mi sentì un vento dar per mezza la fronte, e ben sentì muover la piuma che fe sentir d'ambrosia l'orezza. E sentì dir: